mio quartiere, aria fresca fra le miniere verdi fogli. Vista panoramica dal mio balcone, uomini di belle speranze, soldi facili si sognano adagiati sopra il tavolo di un bar riservato. Prime di ocri o perché occhi per capire che il vento soffia solamente dove vuole lui. Lo supera la discesa che fa angolo col campo, e noi tre sotto l'albero ascoltando latte, miele, tutto come si deve. Terra sotto i piedi e sopra i piedi polvere, sono sempre pieno, sono sempre sporca, questioni da risolvere. Il risveglio come sempre da settembre ottobre, il gelo ti ha raggiunto, in forma d'olio spinto ti ha unto, appunto. Con te novembre sarà certamente più buono, dicembre è questo suono. Buon gusto, City 2000, Bette Big Business. La primavera, il risveglio delle forze profonde, siamo tornati qui per voi. La mia anima, persa nell'oscuro dei miei sogni, si vede uno spiraglio di luce, lontananza avanza, la voglia di riuscire a vivere, a vincere, la paura di morire. Un'anima dannata si fa strada nella notte, pronto a schivare le botte di umano e di allenati, scalza appena nati, non risolti, non importa, la strada ancora lunga, devo andare avanti. Sento il bisogno di sfogarmi, sto venendo a prenderti, per portarti nel mio mondo, fatto di bronzo, scalzi, passi vicinato. Da quando sono nato, questo è quel che vivo, ogni giorno, tutti i giorni, sono uguali nel rione. Amollo nel nero, girando la massiva, volano in sciuti, scattano cumbini. Così voglio continuare a vivere, a ridere, di cazzate fatte insieme ce ne stanno. Così voglio restare. Buon gusto, City 2000, Bette Big Business. La primavera, il risveglio delle forze profonde, siamo tornati qui per voi.